Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno a voi e benvenuti. Finalmente sabato, possiamo accomodarci nel salotto buono di questa casa che non è un albergo, ma ci si sta comodissimi per parlare di noi e delle relazioni che abbiamo con i nostri figli. Accanto a me Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Oggi, Alberto, entriamo nelle case di due ascoltatori. Sì. Prendiamo due piccioni con una fava. Forse è un periodo in cui i nostri figli ne stanno combinando di tutti i colori. Abbiamo così tante mail che dobbiamo in ogni puntata mettere insieme più case. Allora, iniziamo subito dal primo caso. Salve, vi ho conosciuto dopo aver letto il libro ispirato dalla vostra trasmissione. Così ho recuperato anche molte puntate del passato attraverso il podcasting. Però il mio problema non ha ancora trovato risposta nel vostro programma e quindi vi chiedo di aiutarmi. Sono sposato, felicemente, e ho due figli, una ragazza di 13 anni e l'altro di 9. In questo momento in casa nostra la situazione è invivibile a causa di nostra figlia, per la quale non sappiamo che pesci pigliare. Lei fa la terza media. La sua voglia di studiare è pari a zero. E noi, per porvi rimedio, le abbiamo provate tutte. L'ultima sua bravata è stata 15 giorni fa, quando ha fatto filone a scuola e sono riuscito a scoprirlo tramite il suo telefonino. Non ho detto niente a mia moglie per non darle un altro dispiacere. Ho provato a parlarne direttamente con la ragazza, come facciamo da 13 anni, e lei mi ha promesso che sarebbe cambiata. Così mi è sembrato di vederla mettersi a studiare più seriamente, anche perché altrimenti rischia la bocciatura. Pensavo quindi che le cose si stessero mettendo a posto, e invece ieri sono stato chiamato dalla scuola frequentata da mia figlia, che mi ha informato della sua assenza del giorno precedente. Quando le ho chiesto perché si è comportata in questo modo, lei è rimasta in silenzio senza sapere cosa dire. Prima di Natale siamo stati anche da uno psicoterapeuta, di fronte al quale lei ha raccontato un sacco di bugie. Potrei dirvi altre cose incredibili sulla sua indolenza e sulla voglia di trasgressione. Noi non sappiamo più cosa fare davanti a un egoista del genere. Se potete indicarci voi come fare, vi ringraziamo. Due genitori in difficoltà. Alberto, una bella paperina. Tu come dicevi, filone a scuola? Noi dicevamo bigiare. Io ho bigiato a scuola questa mattina. E bigiavi? No, io ero proprio poco bigione. Io tutta la regolarità possibile e immaginabile, ecco, io la incarnavo. Lo so che mi guardi con tristezza. No. Una gran brutta adolescenza, vorresti dire. No, ma il papà di oggi ci pone di fronte ad un problema abbastanza complesso. Lui non sa più che pesci pigliare. La ragazza non va a scuola, bigia, fa filone, è interrogata, rimane in silenzio e poi va da questo psicologo a cui racconta un sacco di bugie. È un caso difficile, Alberto? Direi che è un caso complesso, perché ci sono veramente tanti elementi che hai sottolineato tu, e non ultimo, io non trascurerei questa cosa, che l'ultimo problema della figlia è stato tenuto nascosto alla mamma per non dare un altro dispiacere. Interessa sapere che ha un fratello di 9 anni? Ma potrebbe essere magari parte del problema o magari anche parte della soluzione, però a questo punto abbiamo bisogno. Ci facciamo dare una mano, anzi due, dalla dottoressa Elena Budai. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Psicologa e psicoterapeuta dell'età evolutiva, quindi fa proprio al caso nostro, autrice del libro Imparare a pensare, funzione riflessiva e relazioni in adolescenza di Franco Angeli, e socia all'Istituto Minotauro. È un caso questo che fa preoccupare il padre, come ha sottolineato Alberto, ha pensato per l'ultima bravata della figlia di tenere all'oscuro la mamma. È proprio una di quelle situazioni in cui si sente in maniera molto evidente il dolore e lo smarrimento dei genitori di fronte a dei comportamenti dei figli che proprio sono difficili da comprendere, a cui proprio è difficile dare un significato, e anche chiedendo a loro e provando a parlarne con loro stessi probabilmente non sono in grado di dare agli adulti una spiegazione o non si sentono liberi di parlarne e diventa molto difficile sapere quindi come intervenire. Quindi sì, si tratta proprio di una situazione complicata. Hanno chiesto aiuto ad uno psicoterapeuta e la ragazza ha raccontato un sacco di frottole. È normale, secondo lei? È un segnale di difesa? Sarebbe interessante capire il contenuto di queste frottole, perché proprio andando a capire che cosa la ragazza ha raccontato di sé, forse potremmo capire le motivazioni del suo comportamento. Se ad esempio avesse raccontato delle frottole che miravano a mantenere un'immagine positiva di sé e quindi a nascondere, diciamo, le trasgressioni e i dolori che la ragazza sta causando ai genitori, già questo potrebbe orientarci in una certa direzione. Ad esempio, proviamo a fare delle ipotesi. Sì, esatto, perché ad esempio alcune bugie sono mosse dalla vergogna e dove in realtà il comportamento dei ragazzi è proprio volto a ad affannarsi per cercare di recuperare delle difficoltà, delle fatiche che per esempio si fanno nella scuola, nel caso ad esempio della ragazzina potrebbe essere una possibilità, e il fatto di non riuscire in realtà a venire a capo delle proprie difficoltà potrebbe indurre a un disinvestimento completo, in realtà però non volontario e indolente o trasgressivo come appare all'esterno, ma in realtà frutto di un dolore e fonte di grande vergogna. Allora, se per caso le frottole raccontate dallo psicoterapeuta andassero in questa direzione, potremmo validare queste ipotesi. Alberto, da padre, tu come ti saresti comportato? Tu sei il papà di questa casa, non è un albergo? Ma io, guarda, più che altro riesco a dirti che vedo in questo papà, oltre alla tristezza per un possibile sua percezione di fallimento educativo, l'impotenza. Effettivamente è un papà che ci ha scritto e che ci dice: io non so cosa fare, tutte. Le ho provate tutte. Però una domanda per la dottoressa Budai, cioè questo papà ci dice: io ho sentito che diceva lo psicoterapeuta molte frottole, il che mi fa pensare che dallo psicoterapeuta erano insieme il papà e la figlia. Ma si fa così la consulenza a un adolescente o questo è di solito lo schema del primo colloquio? Poi sarebbe bene pensare che lo psicoterapeuta va avanti a lavorare da solo con la ragazza? Sì, ci sono naturalmente tanti modi di lavorare. Personalmente quello che utilizzo prevede appunto che ci sia uno spazio individuale per il ragazzo, che si possa sentire libero di parlare con lo psicoterapeuta dei suoi punti di vista, ed è importante anche che sappia che quello che lui dice poi sarà coperto dal segreto professionale, anche se poi bisogna proprio esplicitare e bisogna dire al ragazzo che probabilmente troveremo insieme delle cose che sarà utile poi rivelare e aiutarlo a comunicare ai genitori, perché lo scopo naturalmente del lavoro non è quello che il ragazzo stia molto bene con noi e parli con noi, ma riesca poi a comunicare dentro la famiglia per stare meglio insieme ai suoi genitori. Indolenza e voglia di trasgressione, questi sono gli altri due aspetti che ci sottolinea il papà nella sua lettera. Evidentemente è uno stato della ragazza che sta continuando da mesi. Noi tante volte diciamo, dottoressa Buda, e ai nostri amici a casa, i ragazzi cambiano, sono in trasformazione. Il problema è che quando noi come genitori stiamo vivendo insieme a loro un problema, pensiamo che questo problema sia destinato a perdurare per anni e anni, invece bisognerebbe sempre riuscire ad avere quella fiducia, cercare quello spiraglio, perché il cambiamento magari è piccolo, appena accennato, coperto, ma c'è. Questa casa non è un albergo. Allora, siamo tornati insieme, abbiamo tanti spunti su cui riflettere, che ci ha fornito il papà disperato di questa ragazza, bigia alla scuola, è indolente, non ha voglia di studiare, è andata da uno psicoterapeuta con scarsi risultati, raccontando un sacco di bugie, e il padre sottolinea, Alberto, un aspetto che per te è molto importante, di cui discutevamo prima di andare in onda, ed è... Una delle cose che mi ha colpito in questa lettera è che poi proprio nell'ultima riga il papà dice: non sappiamo cosa fare davanti a un egoista del genere, quindi c'è una sorta anche di giudizio morale che va al di là del qui ed ora dei molti problemi. Lo dico io come mamma, perché quando magari dottoressa Budai, il ragazzo o la ragazza si comporta in questo modo e quindi ci fa soffrire, uno, il genitore dice: ma non vedi quanto soffro, ma non hai cuore, sei sei così egoista da non accorgerti di quanti problemi, di quante delusioni puoi dare a noi con il tuo comportamento? Un vero e proprio tradimento, ci si sente traditi dal figlio che non considera più la nostra posizione, il nostro punto di vista, la nostra sofferenza. Cosa si può fare in questo caso con la ragazza, ed eventualmente ci aiuti a capire anche che genere di aiuto si può dare a un genitore che è così guarda in difficoltà? Guarda che questo sarebbe anche il tuo compito, magari quindi non ci scaricarlo. Lui, dottoressa, lo fa parlare prima lei, così poi lui dà il suo commentino finale. Vabbè, lasciamogli questo vantaggio, dottoressa Budai. Lei che cosa farebbe? No, certo, è umano. La conclusione a cui è arrivato il papà è umana, cioè sentire in quei momenti il figlio come egoista, come traditore, quindi attribuire un giudizio negativo ai suoi comportamenti è molto comprensibile da parte di un genitore. Il problema è che quando questo giudizio poi si è strutturato nella mente del genitore, in questo caso è confermato anche con la scelta di non parlare con la mamma di questo ulteriore episodio, quindi dando un po' una connotazione già formulata come negativa al comportamento della ragazza, questo tipo di atteggiamento poi di fatto viene sentito dal ragazzo e non facilita naturalmente la possibilità di comunicare. In questo caso invece, per poter capire che cosa fare, bisognerebbe davvero prima fermarsi un attimo e riuscire a pensare che cosa sta succedendo. In questo momento davvero la caratteristica della situazione è che è molto confusa, i desideri trasgressivi, la difficoltà di impadronirsi della scuola, di responsabilizzarsi nei confronti della scuola, possono essere da un lato, come dire, dei segnali di una crescita che procede, ma che sta procedendo in questo momento con delle difficoltà. E davvero per capire che cosa fare bisognerebbe risalire a qual è il tipo di difficoltà, bisognerebbe riuscire naturalmente con l'aiuto di uno specialista esterno, perché i genitori in questo caso non possono che sentire la ragazza come fastidiosa, egoista o trasgressiva e quindi essere arrabbiati con lei. Ma sì, occorre... ci si trova di fronte ad una matassa di fili e non riusciamo a prendere quello che la dipana. Esatto, l'aiuto di uno specialista esterno può aiutare innanzitutto la ragazza a capire che cosa le sta succedendo. In realtà quando parliamo con i ragazzi in queste situazioni quasi mai abbiamo l'impressione di ragazzi egoisti o che sfidano i genitori o che vogliono mentire, ma davvero con ragazzi che loro stessi non sanno che pesci pigliare di fronte ai problemi che stanno vivendo. E quindi è davvero importante prima di tutto come dire, far diradare la coltre un po' della rabbia e del fastidio che si è accumulato in tutti questi anni di fatiche, di episodi difficili da gestire, proprio per poi poter rendere un po' più nitide le rappresentazioni delle situazioni e capire davvero qual è lo scacco in cui è caduta questa ragazza. Nella lettera c'è lo spettro di una possibile bocciatura. Come genitori dovremmo discutere con la ragazza, perché l'obiettivo più importante è evitare questa bocciatura, o eventualmente è meglio rilavorare su tutti gli aspetti magari motivazionali, di studio, di apprendimento, cioè andare con calma? Questo è stato un anno molto molto difficile. Voglio dire, ma l'anno è a febbraio, dottoressa Budai. Insomma, le scuole si concludono già a fine maggio, giugno, quindi io... È ancora del tempo, ma è naturale che in questo momento la visione del papà sia preoccupata e veda già conclusioni negative, che peraltro possono anche arrivare. Il problema è che arriva un momento nella nostra vita di genitori in cui ci sentiamo davvero impotenti, perché per quanti stimoli noi possiamo dare ai nostri figli, per quanti aiuti li possiamo dare, poi è vero che a scuola ci sono loro e che i contenuti li devono imparare loro, e quindi ci scontriamo con una situazione in cui difficilmente riusciamo a intervenire per evitare le conseguenze delle loro azioni. In alcuni casi questo può anche, come dire, servire e responsabilizzare il ragazzo, mettendolo di fronte alle conseguenze di realtà di quello che lui non riesce ad affrontare da solo, e quindi di un atteggiamento di disinvestimento nei confronti della scuola. Davvero però per capire se occorre intervenire con la scuola per evitare a tutti i costi questa bocciatura con lavori di recupero motivazionale eccetera, bisognerebbe capire qual è il tipo di difficoltà che bisogna quindi fare una diagnosi. Alberto, la dottoressa Budai, perché tu sei un esperto quindi non devi solo far domande ma devi darci anche delle delle risposte, riflessioni, devi accenderci dei pensieri. La dottoressa Buda ne ha acceso uno a me, cioè non è il padre che, non è solo il padre che non sa che pesci prendere, ma è anche proprio il ragazzo che ha questi comportamenti che sembrano trasgressivi, di indolenza, e invece abbiamo di fronte un ragazzo che è in grande difficoltà, non sa da che parte cominciare. Allora, un genitore, oltre ad affidarlo, come suggeriva la dottoressa Buda, e quando la situazione diventa veramente difficile e complicata, ad un aiuto esterno, che cosa potrebbe fare? Come potrebbe smuovere? Come potrebbe aiutare il ragazzo a riprendere, a sollevarsi, a riprendere un po' il passo, una fiducia in sé? Allora, io mi muoverei come genitore in due direzioni. Il primo è proverei a fare un'alleanza educativa tra adulti con gli insegnanti di mia figlia, esplorando con loro quali sono le sue difficoltà, cioè che genere di valutazione danno. Spesso ti dicono la ragazza è molto capace però non si applica, e allora questo è un bel quadro che ci dice non è motivata, non sta studiando. L'altra cosa che ci potrebbero dire invece, fa veramente fatica, è come se le mancassero delle funzioni di base, delle competenze di base. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto su cui mi muoverei è un'alleanza con mia figlia. Cioè io potrei proprio dire tu questa cosa. Tu alleanza come padre o alleanza come coppia di genitori? Ma come coppia di genitori, cioè potrei metterla di fronte al dato compiuto. Le cose stanno andando molto male e fondamentalmente noi il problema più grosso che abbiamo è non sappiamo come aiutarti. Allora, in questo momento siamo disposti a fare qualsiasi cosa per aiutarti, ma ci devi anche un po' guidare tu. Per esempio, vogliamo investire un po' di denaro proprio in un aiuto specialistico per te, e possiamo andare nella direzione dello psicoterapeuta oppure nella direzione di qualcuno che ti aiuti a apprendere un metodo di studio oppure a studiare meglio. E come obiettivo vogliamo vedere, per esempio, un tuo successo scolastico. Aiutaci a capire in che direzione vuoi che noi portiamo il tuo aiuto, ma questa cosa la devi progettare tu. Possiamo anche far andare le cose in contemporanea, ma da questo passaggio in poi la prima sfida è aiutaci a capire dove hai bisogno. La seconda è qual è la tua passione in questo momento, perché a me sembra che dentro questa lettera alla fine vediamo una ragazza che fa tante cose sbagliate e apparentemente non ne fa neanche una giusta. Non è possibile questo, esatto. Vero, dottoressa Budai? Senz'altro. Quindi, io credo nella coltre, nella che sta coprendo. Individuerei con lei un'area che la sta appassionando molto in questo momento della sua vita, e questa o che le piace un pochino di più del o resto. Che le piace un po' di più, perché del parlare resto di passioni in questo momento mi sembra. Beh, però guarda che a 13 anni secondo me hai delle cose che sì, ti piace molto coltivare o provare a fare, e su quello mi metterei di nuovo a disposizione. Cioè direi probabilmente in questo momento vedi delle cose faticose, delle cose invece che potrebbero essere molto belle, proviamo a coltivarle insieme, a vedere se quello che il piacere che sperimenti nelle cose belle ti aiuta un po' a tollerare la frustrazione delle cose faticose. E daresti un tempo, Alberto? Ma il tempo lo dà purtroppo la scadenza dell'anno scolastico, cioè sì, proviamo a monitorare insieme come vanno le cose nei prossimi 3-4 mesi, e questo secondo me è generare un'alleanza, cioè voglio costruire con te il progetto in cui tu aiuti te stessa. Dottoressa Budai, mi sembra questa un'ottima possibilità, no? Una bella strada che ci suggerisce. Che suggerimento vada proprio, questo suggerimento vada proprio nella direzione di alleggerire un po' le immagini negative che rischiamo di trasmettere invece alla ragazza, di rispecchiarle un'immagine molto negativa, mentre un discorso di questo genere potrebbe rimettere in circolo la speranza, trattando la ragazza anche come una ragazza capace che ha possibilità di poter fare. Ecco, aspettiamoci dalla ragazza anche dopo queste proposte che hanno noi adulti sembrano assolutamente positive, concrete, efficaci. Dalla ragazza possiamo aspettarci anche un altro silenzio. Di sicuro. Ecco, non verrà, non andremo a casa e diciamo tutto quello che ci ha raccontato Alberto Pellai, e la ragazza dice bellissima idea, proprio quello che aspettavo. Forse non andrà proprio così. In realtà forse sta proprio a noi adulti il fatto poi di aiutare a dare significato a questi silenzi e capire in realtà che cosa questi silenzi stanno comunicando. Quindi che tipo di richiesta di aiuto questa ragazza, con l'allarme che genera intorno, sta facendo al suo contesto educativo. Quindi se non risponde la prima volta, Alberto si può ritentare. Sì, e soprattutto magari provare a rispettare anche i suoi tempi. Può essere che io adesso ti faccio una proposta e non mi puoi dare la risposta in un minuto e mezzo. Intanto ti dico quello che ho in mente per te. Domani, se hai voglia, ne riparliamo insieme. Dottoressa Budai, grazie. Intanto ne abbiamo parlato con lei e ci ha acceso pensieri, come dice Alberto. La ringrazio e le auguro una buonissima giornata. Grazie, arrivederci. Questa casa non è un albergo. Ci avete aspettato, avete fatto bene, perché adesso c'è il consiglio di lettura e poi il secondo caso della puntata. Quindi consiglio di lettura. Oggi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, potete ricevere a casa il libro che si intitola Il bambino non è un elettrodomestico, Urrà Edizioni. Se volete ricevere questo libro a casa dovete essere molto veloci, infatti il libro arriverà a casa dell'ascoltatore che per primo manderà una mail a esserebenessere@radio24.it. In collaborazione con IBS.it. Alberto, sei pronto? Eccomi qua. Adesso è una mamma che si rivolge a noi. Andiamo a sentire per quale problema. In casa nostra siamo stati molto attenti a dare buone regole educative ai nostri tre figli di 14, 12 e 6 anni. Tutto sembra aver funzionato in modo più o meno soddisfacente, ma nelle ultime settimane ci ha lasciato senza parole la tendenza dell'ultimo figlio, Paolo, che ribadisco ha solo 6 anni, a dire un sacco di parolacce per i motivi più futili. A volte le indirizza ai suoi fratelli quando lo fanno arrabbiare, altre volte le urla mentre gioca da solo, con la consapevolezza che tutti noi le sentiremo. L'altro giorno alle parolacce si è aggiunta per la prima volta una bestemmia. Non vi dico la mia costernazione. Abbiamo provato a dargli regole e divieti, ma sembrano poco efficaci. Cosa ci resta da fare? Ditecelo voi. Allora, per aiutare questa mamma in difficoltà, insieme ad Alberto abbiamo pensato di rivolgerci nuovamente alla dottoressa Roberta Giommi, psicoterapeuta e sessuologa. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a voi. Insomma, negli ultimi tempi la facciamo lavorare, è un po' troppo. Volentieri, sto volentieri con voi. Vede, gliel'ho servita proprio su un piatto d'argento, così anche Alberto è contento. Allora, le parolacce, c'è il momento del perché, c'è il momento dei no e c'è anche il momento delle parolacce. Ah sì, dunque, intanto i figli piccoli, in generale anche quelli più piccoli, quando si rendono conto delle parole che hanno un contenuto aggressivo e spregiudicato, fanno nascere inquietudini nei genitori, tendono in maniera importante a ripeterle. Sembra quasi che sia una forma di emancipazione che permette ai figli di fare delle provocazioni, anche se poi le usano appunto in maniera così anche casuale, non obbligatoriamente così giusta da un punto di vista dell'indirizzo della parolaccia, però mi sembra sia sempre una forma di affermazione di autonomia o anche di ribellione. Alberto, tu che hai 4 bambini, ti è mai capitato di doverli rimproverare perché magari hanno detto una parolaccia? O ci è capitato con uno dei nostri figli che è tornato a casa proprio dalla scuola materna e ne ha detto una serie, le ha ripetute più volte. La nostra, ti dico quello che abbiamo fatto. Sì. Noi da una parte è stata proprio non dare troppa importanza, a volte intervenire e dire ma in questa casa non le senti dire, quindi, ma in realtà in modo molto abbiamo fatto un intervento sulle bestemmie. Mi riconoscevo molto in questa mail, perché questo è un altro aspetto che il bambino ha portato a casa dalla scuola materna e su cui noi siamo rimasti un po' costernati. Su questo abbiamo fatto invece un lavoro più attento, cioè abbiamo provato proprio a incrociare cosa c'era dentro una bestemmia e cosa per esempio lui faceva la sera dicendo le preghiere, e su questo ha funzionato, nonostante un livello magari più cognitivo e lui fosse così piccolo, questa cosa gli è arrivata, ha imparato a non dirle più. Parliamo di un pellaino di anni? Era 5 anni. 5 anni. Ecco, proviamo allora a parlare a questo ipotetico bambino, Alberto. Ma io ti dirò che abbiamo proprio ripreso questa cosa, al di là del fatto che lui dica le preghiere alla sera, abbiamo pensato, prova a pensare una delle cose più importanti che c'è nella tua vita, quindi la mamma e il papà, e prova a pensare se improvvisamente quando passa il tuo papà per strada tu senti un signore che dice porco Alberto. Cosa penseresti? Ti piacerebbe? Sarebbe una cosa che ti tocca oppure no? E questo è un modo modo in parte teorico ma in parte anche molto concreto che gli ha acceso subito la lampadina. Ma noi sentiamo sempre più spesso, basta andare nei mezzi pubblici dove ci sono gruppi di ragazzi davanti alla scuola, adolescenti che veramente infarciscono il loro modo di parlare di parolacce, di bestemmie, e lì si parla di ragazzi che frequentano le medie oppure il liceo, quindi di persone che iniziano a diventare adulte. Qualche cosa non è stato fatto prima, o forse ci sono dei ragazzi anche che usano proprio questi termini fuori da casa, mentre poi a casa sono assolutamente perfetti. In questi casi che cosa si può fare, dottoressa Giommi? Ma intanto, appunto, spesso e volentieri poi alcune fasce d'età usano molto anche parole sessuali per in maniera spregiudicata e in contesti non giusti. Però appunto si entra sempre in una fase, potrebbe essere l'adolescenza, cioè quindi una fase in cui, in modo diverso dai bambini piccoli, in cui la provocazione c'è ma non è così consapevole ed è un richiamo agli adulti di riferimento. In adolescenza, soprattutto in gruppo, si fa chi le dice di più o può avere più essere più spregiudicato, cioè quindi potremo trovare, cioè, che come non si fa sedere le persone anziane, non si riguarda se il nostro zaino sta sbattendo contro qualcuno, ci sia un modo gruppale di adottare un linguaggio sbagliato, però una parte bisogna anche accettarla, cioè che in fondo anche durante le occupazioni universitarie anni fa si dicevano molte parole che avevano a che fare con il desiderio di rompere le regole, cioè quindi io credo sempre molto nella conversazione, cioè non probabilmente in tram, negli ambienti scolastici o negli ambienti familiari, capire se si può essere spregiudicati e moderni anche senza adoperare per forza il turpiloquio. Alberto, i bambini tuoi cresceranno. Certo, e io penso appunto in continuità con quello che ci ha detto la dottoressa Giommi, che per questi ragazzi spesso il modo è molto provocatorio per gli adulti, e una delle cose che li destabilizza di più è trovarsi un adulto molto tranquillo e sorridente che li guarda negli occhi e gli dice: ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Non potresti provare a dire in un altro modo? Oppure: sai che quello che stai dicendo mi tocca profondamente, per cui è una cosa che mi colpisce, con una modalità che non è la predica, ma è proprio: ti metto a disposizione un'emozione che mi genera disagio e tu sei quello che mi genera disagio. Fatto in questo modo, in un modo che non è dall'alto in basso, ma è proprio da pari a pari, ti guardo negli occhi e ti dico quello che mi fai provare, spesso i ragazzi rimangono molto colpiti. Tu mi avevi raccontato di una cosa che ti era capitata in treno con un gruppetto di ragazzi. Sì, cioè secondo me a volte non lo riesco a fare sempre, perché poi ci vuole anche lì una certa, tante volte poi, come dice la dottoressa Giommi, bisogna proprio anche lasciarli fare, si spegneranno da soli, insomma è proprio una fase. A volte è proprio, secondo me, importante la calma, tranquillità dell'adulto che li guarda negli occhi, perché loro afferrano al volo. Dottoressa Giommi, allora abbiamo detto che le parolacce possono essere un periodo per i bambini piccoli, per i bambini grandi, abbiamo parlato di bestemmia nei bambini piccoli, ci sono anche le bestemmie nei ragazzi che sanno intendere volere. In questi casi come si interviene? Credo ci possa essere una ribellione immediata, cioè quindi quello che si può fare con saggezza, oppure a volte sfuggendo, a volte invece appunto fermandosi a parlare, forse su questo può essere fatto in maniera più ferma anche in luoghi pubblici o in luoghi dove siamo in mezzo ad altri, perché in qualche modo siccome questa provocazione è più gratuita e più aggressiva, forse è meglio anche dare un segnale di disapprovazione. Questo non vuol dire che i ragazzi e le ragazze si fermino, perché anche le ragazze sono bulle oggi e quindi anche loro possono adoperare questo modo di parlare che contiene un dispregio per tutto, no? Però appunto il nostro compito anche come adulti può essere quello di dare un segnale di stop. Questo può essere fatto da più di un adulto, perché a volte potrebbe essere interessante anche che un gruppo di ragazzi possa rispondere in maniera ferma un gruppo di adulti, dando una dimensione di attenzione ai problemi e anche di capacità di fronteggiare le cose sbagliate. Dottoressa Giommi, si tenga pronta, perché sicuramente la chiameremo al più presto, per cui busseremo nuovamente alla sua porta, le daremo uno squillo di telefono, e intanto grazie per essere stata con noi, buona giornata, alla prossima. Alla prossima, buon lavoro. Alberto, noi chiudiamo qui, ma solo per una settimana, perché sabato siamo di nuovo qua, toglieremo un po' di polvere dai mobili e il nostro divanone sarà di nuovo lì ad aspettarci. Allora, un saluto e grazie per averci seguito. Buonissima giornata da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.